Merci à nos invités, Thomas Prado et David Esparti, d'avoir accepté de venir aujourd'hui pour animer la troisième séance du séminaire de lecture en sciences humaines et sociales, portant cette année sur les normes. Les deux séances précédentes ont été consacrées successivement à la mention des normes ainsi qu'au rapport de la normativité et du droit, puis aux doctrines en lien plus particulièrement avec l'enseignement de celles-ci. Au moment où se mettait en place l'organisation générale du séminaire, nous avons éprouvé la nécessité de consacrer au moins une séance au rapport entre normes et sciences ou normes et savoirs de manière plus générale. Le champ ainsi abordé était vaste, avec la possibilité d'interroger ce rapport en amont des sciences, comment les normes font la science, qu'en aval, comment la science est productrice de normes. Et de fait, nos premières réflexions s'étaient tournées davantage sur l'organisation normée du savoir dans la production scientifique. L'ouvrage de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, nous a paru se situer au croisement de ces deux thèmes dans la mesure où il affirmait, à côté de la science révolutionnaire, l'existence d'une science normale. Par ailleurs, par un heureux hasard, cela fait tout juste 50 ans que paraissait son ouvrage. Nous avons donc choisi de saisir cette occasion et de prendre l'œuvre de Kuhn comme le point de départ à nos réflexions sur la place des normes dans le savoir et la pratique scientifique. Dans la préface à son livre, Kuhn retrace son parcours et développe les objets qui l'ont progressivement intéressé à la philosophie de la science. Il met en valeur notamment trois étapes importantes de sa réflexion. La lecture tout d'abord d'ouvrages et articles sur la psychologie de la perception suite à la découverte des expériences menées par Jean Piaget. Ensuite, les enseignements d'histoire des sciences qu'il a dû donner à l'université. Enfin, le séjour dans les années 58-59 qu'il passa au Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences, qui fut l'occasion notamment pour lui de rencontrer la communauté des chercheurs en sciences sociales qu'il avait peu fréquenté jusque-là. C'est en constatant d'ailleurs les divisions au sein de cette communauté qu'il aurait forgé la notion de paradigme. Ce parcours l'amena à publier en 1962 dans l'Encyclopédie de la Science Unifiée, un essai qui est généralement considéré comme un tournant de l'épistémologie américaine des années 60-80. Dans son essai, Kuhn s'opposait à l'épistémologie issue du positivisme logique et contribua, avec d'autres philosophes des sciences, à une conception radicalement nouvelle de la nature de la science, mais aussi à une redéfinition de la philosophie des sciences ainsi que de la méthode scientifique. Il se posait en particulier contre l'image traditionnelle de la science qui, indépendamment de ses vicissitudes, cherche à établir quelle est la bonne méthode scientifique. Questionnement qui suppose un point de vue normatif et non descriptif de la pratique scientifique. Contre les tenants de l'empirisme logique, Kuhn favorisait l'approche descriptive contre une approche normative et ce faisant, il ne se débarrassait pas de la norme qu'il réinvestissait autrement dans la science normale. En effet, l'un des temps forts de son œuvre fut de mettre à jour une historicité de la science qui ne soit pas une accumulation des acquis tendant vers une vérité, mais qui soit enchaînement et alternance de deux temporalités, celle de la science normale et celle de la science révolutionnaire. La science normale est dès lors comprise comme une recherche fermement établie sur une ou plusieurs réussites scientifiques passées, réussites qu'une certaine communauté scientifique reconnaît pour un temps comme fournissant les fondements pour sa propre pratique ultérieure. L'activité de la science normale consiste alors essentiellement dans la résolution d'énigmes. Dans ce contexte, Kuhn utilise également le terme de paradigme. On a pu lui reprocher d'utiliser dans des sens différents le mot paradigme, et nous avons nous-mêmes d'ailleurs demandé à nos invités de revenir sur la définition d'un tel terme. Celui-ci peut être en effet employé dans la structure des révolutions scientifiques pour désigner la façon standard, le modèle pour traiter les problèmes, mais aussi pour envoyer à l'ensemble des valeurs, données, méthodes et façons de voir le monde que partage une communauté de chercheurs. Ces quelques rapides définitions sur lesquelles reviendront nos deux intervenants suffisent à montrer l'importance que revêt la communauté scientifique dans l'œuvre de Kuhn. Bien que le physicien et philosophe des sciences ait fréquenté la communauté des chercheurs en sciences sociales, la sociologie des sciences occupe toutefois une place restreinte dans son ouvrage et dans sa réflexion comme il l'admet lui-même. Le terme, nous semble-t-il, qui caractérise au mieux la communauté est plutôt celui de consensus. La science normale paraît en effet caractérisée par le consensus à un moment donné de la communauté des chercheurs autour d'un paradigme. L'historicité de la science, la notion de paradigme, l'idée de consensus, tous ces éléments et bien d'autres encore ont contribué à voir dans l'œuvre de Kuhn la défense d'un certain relativisme. L'approche descriptive qu'il défend par ailleurs contre l'approche normative pourrait confirmer une équivalence chez lui des paradigmes, des théories et des méthodes scientifiques qu'il prend en considération. Au cœur de la pensée de Kuhn, cependant, sous l'influence entre autres de Wittgenstein, se situe le questionnement relatif au langage. Le changement révolutionnaire de paradigme subvertit en effet la méthodologie elle-même et les règles de fonctionnement du langage. La science normale apparaît alors comme le moment où un dialogue est possible au sein d'une communauté scientifique unifiée, car elle parle une même langue. L'énumération de ces quelques points, parmi d'autres évoqués dans l'œuvre de Kuhn, permet de mesurer l'amplitude et la variété du champ envisagé aujourd'hui, ainsi que de ses implications. Pour tenter de donner un peu une synthèse à ce questionnement, nous avons invité deux membres de la communauté scientifique, justement, qui ont réfléchi sur les sciences dites « dures », aussi bien que sur les sciences sociales. Nous reprenons ainsi le point de vue de l'opinion commune, qui distingue fortement ces deux univers disciplinaires, mais nous avons pensé qu'il serait intéressant de confronter les regards, de voir les points de croisement et les différences dans la manière d'interroger le livre de Kuhn, d'évaluer son héritage et de percevoir les normes dans ces deux pans de la science. Et pour ce faire, donc, nous avons procédé en soumettant à nos deux interlocuteurs une série de remarques, de réflexions, parfois naïves, issues de notre lecture partielle de l'œuvre de Kuhn. Et de notre approche des questions de normativité dans le champ scientifique. Alors, la première série d'interrogations portait sur l'histoire des sciences et en réalité sur l'historicité des sciences. La science est pour Kuhn un objet historique, même s'il rejette l'idée qu'il y ait un progrès et que la vérité scientifique puisse être un but vers lequel progresserait la science. Et nous avons demandé à nos interlocuteurs si cette conception pouvait être considérée aujourd'hui comme un acquis ou si d'autres approches persistaient ou avaient émergé à propos de cette question-là. Et cette question n'est pas que de pure forme, parce que une majorité de personnes ici s'intéressent un peu à l'histoire et que quelques-uns s'intéressent au chat de Schrödinger, mais elle tient plus à une manière de concevoir les différences entre les sciences. Effectivement, les sciences expérimentales sont parfois tenues pour une forme de savoir plus cumulative par rapport aux mathématiques, par exemple, où prévaudrait la logique abstraite, qui serait donc le lieu d'un exercice de la raison universelle, anhistorique en quelque sorte. Donc cette question nous a semblé première dans l'ordre des interrogations qu'on pouvait soumettre à nos interlocuteurs. Comme l'a dit Guylaine, nous nous sommes ensuite concentrés sur le thème principal qui a motivé notre intérêt pour l'œuvre de Kuhn, la notion de paradigme. Il est défini comme une tradition cohérente dans un domaine particulier de la recherche scientifique. Et il nous a semblé qu'en mettant l'accent sur le paradigme, Kuhn déplaçait le regard en s'intéressant moins aux résultats, à proprement parler, qu'au contexte intellectuel dans lequel les résultats scientifiques étaient produits. Mais comme il le reconnaît lui-même dans la postface de 1969 que nous vous avons fait parvenir, son emploi du terme paradigme n'est pas toujours univoque. Et donc nous avons demandé à David Esparti et Thomas Pradeux quelle définition ils en donneraient aujourd'hui dans leur domaine respectif. On leur a demandé également s'il y avait lieu de distinguer un amont et un aval du paradigme, le paradigme entendu à la fois comme condition, comme critère de la production scientifique et comme création, comme résultat de l'activité scientifique. Cette question visait plus particulièrement à préciser si le paradigme était peut-être un équivalent pour les scientifiques de ce que nous entendons par norme. Ensuite, bien sûr, le pivot de l'œuvre de Kuhn est le binôme entre science normale et science révolutionnaire. Ce binôme suppose que la science est susceptible de toujours changer ses propres normes, alors que l'objet de son étude est, pour l'opinion commune, la nature profonde des choses, à laquelle on accorde volontiers un caractère d'immuabilité. Il nous a semblé que Kuhn dépassait ce paradoxe, et ce qui pourrait apparaître comme une faiblesse de la science, en supposant que le monde change avec la manière dont il est perçu. Est-ce que cet argument suffit? Est-ce que d'autres réponses ont été apportées? Il s'agit en fait d'une question qui est débattue, par exemple par les mathématiciens, afin de déterminer si les objets, mais aussi si les idées, préexistent à l'observation, si elles ont une unité hors de l'expérience qu'en fait le scientifique, ou si tout n'est que formel. Et de fait, des chercheurs comme Alain Cohn proposent aujourd'hui des solutions pour dépasser ce type de paradoxe. Là, je vais employer beaucoup de gros mots, à partir de la géométrie non commutative qui vise à allier la relativité et la physique quantique afin de dépasser le type de paradoxe dans lequel nous étions souvent pris lorsque nous examinions ces questions. Un autre volet essentiel des questionnements auxquels mène l'œuvre de Kuhn concerne donc ce que nous appelons les lois de la nature, puisque Kuhn souligne que l'élaboration de lois, de règles, d'axiomes, ou la conception de théories, découle du paradigme alors en vigueur, et que la nature n'est pas l'élément de référence principale pour les scientifiques. Donc pour explorer plus précisément le vocabulaire qui leur est propre, au lieu de leur attribuer le nôtre, nous avons demandé à nos interlocuteurs comment ils définissaient le rapport entre paradigme d'une part et loi, règle, axiome d'autre part. Dans la mesure où les lois peuvent ne concerner qu'un pourcentage réduit de cas observés, par exemple dans le cas de la loi de Bergman sur la taille des mammifères et sa corrélation avec le climat, qui ne concerne qu'en fait 70% des cas qui peuvent être recensés, dans la mesure aussi où certains axiomes sont déclarés indéterminables, indémontrables, comme dans le cas des théorèmes de Gödel, par exemple, à ce moment-là, on peut se demander où sont les normes. Et comment nos interlocuteurs définissent le but de l'activité scientifique dans un contexte de relativité apparente, comme l'a souligné Gödel. Donc, un autre aspect central du travail de Thomas Kuhn portait sur la communauté scientifique. Parce qu'en utilisant le terme de paradigme, Kuhn a permis de dépasser les notions telles que celles de méthode dans l'évaluation de la validité scientifique. Le paradigme ou un ensemble de paradigmes sont ce que les membres d'une communauté scientifique partagent et ce qui explique leur relative communication et leur possible unanimité. Et c'est cette notion de consensus, comme l'a rappelé Guylaine, qui pourrait constituer un critère du paradigme, c'est du moins ce que nous avons soumis à nos intervenants. Ensuite, Kuhn a affirmé que les sciences dures et les sciences sociales se partageaient, se différenciaient à partir de la constitution de cette communauté scientifique qui serait unie dans le cas des sciences dures, divisée et marquée par la coexistence de plusieurs paradigmes dans le cas des sciences sociales. Et en cela, les sciences sociales seraient pré-paradigmatiques, immatures, et on a voulu demander à nos interlocuteurs si ce distinguo était fondé, et s'il intervenait dans l'appréciation de leur propre discipline. Et cette distinction inclut une interrogation sur le rapport des scientifiques au public. Est-ce que les sciences dures lui sont réellement hermétiques, alors que les sciences sociales rechercheraient l'approbation du grand public ? Une réflexion se dessine donc, mais elle est justement typique des préoccupations sociologiques, historiennes et politistes, et peut-être pas propre aux scientifiques, une réflexion donc sur les rapports entre sciences et société. En envisageant le paradigme au niveau d'une communauté scientifique relativement restreinte, Kuhn s'écartait peut-être de la possibilité d'une contagion d'un champ disciplinaire à l'autre, et peut-être aussi de la possibilité d'un champ scientifique à d'autres activités intellectuelles ou culturelles. Un tel hermétisme est une conception qui paraît aujourd'hui dépassée, si on en croit des travaux récents concernant l'amatora et le rôle de l'amatora dans les sciences dures et par rapport aux scientifiques professionnels. Donc nos interlocuteurs ont aimablement accepté de se plier au jeu des questions halogènes, des thématiques venues de disciplines et de chercheurs qui sont éloignés de leurs objets, et de nous donner des éléments de réponse. En premier lieu parlera David Esparti, qui est professeur de sociologie et dont les travaux concernent les processus culturels et l'épistémologie des sciences sociales. Il travaille à la faculté de Sienne, mais aussi à l'école supérieure Sant'Anna de Pise, et à l'Université de la Suisse italienne. Il a également enseigné à Milan et à Bologne, et il collabore à différentes revues de premier plan dans son domaine. Et ses travaux portent sur la théorie de l'identité, sur la philosophie de Wittgenstein, et ce qui ne manquera pas d'intéresser les organisateurs de la prochaine séance du séminaire, sur l'improvisation dans la pratique du jazz. Son dernier ouvrage s'intitulant « L'identità incompiuta, paradossi dell'improvisazione musicale ». Ensuite, nous donnerons la parole à Thomas Pradeux, qui est quant à lui maître de conférence en philosophie de la biologie à l'Université Paris-Sorbonne, membre junior de l'IUF, et dont les travaux portent plus particulièrement sur l'immunologie, ainsi que sur les problèmes d'identité individuelle posés par différents aspects de la biologie, la transplantation, le développement des organismes, l'immunité évidemment. Et il a également écrit et enseigné à propos des théories darwiniennes et des questions d'évolution des espèces. Voilà. Messieurs, c'est à vous. Merci. Malheureusement, je ne parle pas très couramment le français. J'ai choisi de m'exprimer en italien. J'espère que ça va. Mais tout de même, vous pouvez poser votre question en français. Oui. Alors. Dunque, io parlerò una quarantina di minuti. Cerco di non parlare troppo veloce. Se parlo velocemente, mi fate un segno e rallento il ritmo. E sono anzitutto contento di questo coinvolgimento perché mi pare opportuno fare un bilancio dell'opera di Kuhn a 50 anni di distanza. Tutto sommato è meno discusso di quanto meriterebbe, ci fu una grande discussione negli anni 70 e 80 e invece oggi se ne discute meno. Io ho scelto di prendere un tema che non copre tutte le domande che voi avete, ma in qualche modo ne tocca alcune. Durante la discussione posso invece rispondere o cercare di rispondere alle domande, ma magari tra noi due riusciremo a, appunto, a coprire questa esigenza. Il tema che ho scelto io è quello, diciamo così, dello statuto della conoscenza scientifica, e a me sembra che il merito più grande di Kuhn oggi, a 50 anni di distanza, sia quello di aver aperto la strada al costruzionismo. Il costruzionismo in epistemologia è una certa, diciamo, concezione della conoscenza che considera insufficiente e quindi critica l'immagine tradizionale del realismo, cioè di una conoscenza come rispecchiamento neutrale di un paesaggio di dati brutti, di fatti in qualche modo lì a disposizione per essere riprodotti, e sostituisce questa immagine con una seconda in cui osservatore e osservato sono coimplicati, sono in qualche modo coinvolti in modo circolare. Quindi ogni atto di conoscenza implica un'operazione selettiva o costruttiva dell'osservatore. Questo mi sembra il tema più importante che Kuhn ci ha tramandato e quindi sarà un po' il filo rosso della mia presentazione. Partirò parlando del concetto di paradigma, spiegherò in che modo appunto il concetto di paradigma trasforma l'immagine della conoscenza scientifica e non solo scientifica, dirò qualcosa sulla dinamica storica della conoscenza scientifica e poi mi concentrerò un po' sulla differenza, andando al di là di Kuhn, fra, diciamo così, la conoscenza del mondo naturale e la conoscenza del mondo sociale. E qui collegherò Kuhn a un altro autore, che è John Searle, con i quali si sono un po' incrociati, però Searle era a Berkeley, è a Berkeley, e Kuhn era a Harvard. Hanno alcune cose in comune, Wittgenstein, il linguaggio, però insomma non sono io che creo un collegamento che fra di loro era abbastanza blando. Perché Searle? Perché Searle cerca di dire, guardate, il mondo sociale è socialmente costruito, il mondo naturale non lo è. E io invece trovo che Kuhn sia più radicale nel sostenere che invece anche il mondo naturale è socialmente costruito, che non vuol dire che il mondo naturale non esiste, non cadiamo in una concezione troppo ingenua. Significa, diciamo, che il realismo ontologico, cioè l'assunto che vi sia una realtà indipendentemente da noi, si accoppia necessariamente al relativismo epistemologico, cioè all'idea che la nostra conoscenza di quel mondo indipendente da noi è sempre mediata da un quadro concettuale, che Kuhn chiama paradigma, ma altri chiamano in modo diverso. E quindi questo è un po' il percorso. Allora, iniziamo con un accenno forse storico che alcuni conoscono, altri no, lo dico lo stesso, è utile un po' contestualizzare. Io mi occupo di epistemologia, ma non sono uno scienziato. Sono un filosofo di formazione che si è occupato soprattutto di epistemologia delle scienze sociali. Lo dico perché sono in grado di fare esempi e di rispondere a domande, ma non sono in grado di fare dimostrazioni matematiche o di andare sui dettagli in cui andrà magari lui. Questo tanto per chiarire che cosa vi potete aspettare da me. Allora, contestualizziamo Kuhn. Kuhn scrive negli anni 60, in un'epoca che segna l'inizio di una messa in discussione dell'empirismo logico. L'empirismo logico si diffonde a Berlino e a Vienna a partire dai primi del Novecento e, forse con la sola eccezione parziale di Popper, rappresenta l'immagine dominante della razionalità scientifica. Siccome la maggior parte erano ebrei austro-ungarici o ebrei tedeschi, gli empiristi logici sono costretti ad emigrare negli Stati Uniti e a partire dalla metà degli anni 40 continuano a scrivere anche cose molto interessanti e intelligenti, tuttavia tendono ad abbracciare alcuni assunti che Kuhn metterà in discussione. Il primo assunto è quello del realismo, appunto. Non solo esiste una realtà indipendente da noi, questo è un assunto su cui tutti concordano, ma esiste un unico modo corretto di descrivere quella realtà, no? Quindi esiste una descrizione privilegiata di quella realtà che viene chiamata teoria della verificazione o teoria corrispondentista della realtà. L'idea è in qualche modo che il linguaggio possa fotocopiare una porzione della realtà, no? Il linguaggio asserisce la sussistenza di uno stato di cose. Kuhn è uno dei primi, e direi per importanza il più significativo, tra gli autori che metterà in questione l'assunto del realismo, l'assunto che esiste una forte divisione, una divisione che può essere sancita a priori fra la scienza e gli altri saperi, nonché l'idea della cumulatività, cioè l'idea che il sapere scientifico è un sapere puro, incontaminato dai condizionamenti sociali, e che si sviluppa attraverso un'accumulazione mattone dopo mattone della conoscenza verificata. Quindi è un'impresa progressiva e lineare. Ecco, il libro del 62, La struttura dell'evoluzione scientifica, da questo punto di vista è appunto estremamente importante. È importante perché sottrae la scienza dalla sua idealizzazione, no? L'immagine della scienza non è quella che i filosofi della scienza dichiarano essere la scienza, ma è una cosa che si può ricostruire studiando come la scienza viene effettivamente praticata. E quindi Kuhn lo fa storicamente, va a vedere appunto non tanto le teorie già confezionate, che sono i prodotti finali, ma la fabbrica in cui queste teorie vengono negoziate, costruite, riviste, misurate, discusse, dibattute. E questa fabbrica è la comunità scientifica. Quindi per la prima volta l'oggetto della filosofia della scienza non sono le teorie, ma appunto la fabbrica che rappresenta la matrice, insomma, di queste teorie, che è la comunità scientifica. Quindi Kuhn apre la strada poi a tutti gli studi di sociologia della scienza, che appunto andranno a ispezionare in dettaglio come si forma una teoria scientifica. Quindi cosa fanno gli scienziati, uomini e donne, concretamente nella vita quotidiana di laboratorio. E anche questo contribuirà a restituire un'immagine molto diversa della scienza. Ora, il concetto chiave di Kuhn è appunto il concetto di paradigma. Ci sono molte definizioni, sia in Kuhn, in uno dei primi libri scritti su Kuhn, una filosofa della scienza inglese ha isolato, tipo, non so, non mi ricordo più quanti sono, 20 occorrenze diverse della parola paradigma che hanno significati diversi. Questo non importa, l'importante è cogliere il senso principale del termine. Allora, che cos'è un paradigma? Anzitutto, come nasce un paradigma? Kuhn dice che un paradigma si forma quando un gruppo di scienziati, perché anche se si parla di Copernico o Galileo non sono mai soli, fanno una scoperta scientifica che genera consenso disciplinare, cioè a dire che viene percepita come un risultato esemplare, qualcosa su cui convergono i vari scienziati. Quindi l'atto di nascita è una scoperta che, diciamo così, ha la forza di attrarre una parte della comunità scientifica. In secondo luogo, un paradigma orienta la ricerca futura, quindi non solo crea consenso all'interno della comunità disciplinare, ma orienta gli scienziati che vengono dopo la scoperta, definisce i metodi da usare, i problemi da risolvere, gli assunti di base. In terzo luogo, e questo è l'aspetto cruciale che spesso viene dimenticato, un paradigma, non l'ho ancora definito in due parole, è qualcosa che viene trasmesso alle generazioni successive. Quindi in primo luogo è qualcosa che si impara quando si viene iniziati a una disciplina o a un programma di ricerca. Quindi il momento in cui il paradigma emerge è tutto sommato irrilevante, cruciale sono gli anni, i decenni e i secoli nei quali quel paradigma viene trasmesso alle generazioni successive. Quindi io inizio a studiare biologia o immunologia e ho a che fare con dei manuali. I manuali sono una sorta di materializzazione del paradigma. Il paradigma si traduce e si realizza in alcuni manuali scientifici a cui vengo iniziato insieme alle lezioni, insieme al lavoro di laboratorio, e così acquisisco tacitamente il paradigma, tacitamente perché non è che c'è scritto questo è il paradigma, qui inizia e qui finisce, no, io imparo l'immunologia, ma nell'imparare a diventare immunologo acquisisco tacitamente, implicitamente, il paradigma di riferimento. Per questo un paradigma non va confuso con una teoria scientifica. Una teoria scientifica è un insieme di proposizioni che riguardano una sezione della realtà. Il paradigma è un concetto molto più ampio. È un orizzonte all'interno del quale io, come studente, mi formo. Alcuni aspetti sono dichiarati, alcuni aspetti sono impliciti. Io acquisisco questo orizzonte che poi guida il mio lavoro. Quindi ecco una prima differenza fondamentale rispetto agli empiristi logici, i quali pensavano ci fossero delle singole teorie o delle singole proposizioni vere della realtà. No, la scienza ha a che fare con un insieme intrecciato di teorie, di immagini, di assunti, di metodi, e questa è una specie di gnocco che non si può disarticolare. No? Si acquisisce tutto insieme. Da un punto di vista epistemologico, l'idea cruciale di Kuhn è che il rapporto con la realtà è sempre mediato da questa sorta di filtro che è il paradigma. Ma non è un difetto questo. È la condizione di possibilità per poter vedere alcune cose. Prendiamo le costellazioni, no? Facciamo un primo esempio, le costellazioni. Non so come si dice l'orsa maggiore in francese. La grande ours. Bene. Allora, vi chiedo, secondo voi nelle sette stelle, ma sono di più, diciamo sette, che formano l'orsa maggiore, c'è un puntatore che dice collegami con questa stella e non con quest'altra, collegami con questa e non con quest'altra e così via? C'è all'interno della stella un'istruzione che mi obbliga a collegarla a queste altre? Ovviamente no, non c'è. Siamo noi che ritagliamo il mondo in un certo modo. Infatti io da bambino non la vedevo quest'orsa, mi dicevano eccola là, io vedevo un ammasso di stelle e non capivo dove bisognava tracciare i confini. Allora un paradigma è ciò che mi permette, questo è un esempio in piccola scala, diciamo così, appunto, di vedere l'orsa maggiore, di differenziare questa configurazione dalle altre stelle che fanno parte dello sfondo irrilevante che non mi interessano. Senza paradigma io l'orsa maggiore non la vedo. Allora, qual è il punto? Primo punto, le giunture naturali non ci sono. Siamo noi che mettiamo in forma la realtà. Secondo punto, le mettiamo in forma grazie alla mediazione del paradigma, di questo quadro concettuale che mi permette di vedere quello che c'è ritagliando in un certo modo. Terzo, il paradigma non è mio o suo, ma è condiviso da una comunità. Quanto è grande la comunità, per quanto tempo, qui sono domande più scivolose, però diciamo ci interessano meno. Kuhn lavora molto sulla percezione. Il suo riferimento principale è la psicologia della Gestalt, che si forma anch'essa, sono tutti ebrei austro-ungarici, alla fine è lì che viene insomma l'intelligenza del Novecento. La psicologia della Gestalt si occupa appunto del modo in cui noi vediamo degli interi e non delle singole parti. Quando io vedo una persona che sorride, vedo un sorriso, non vedo le sopracciglia alzarsi, le narici dilatarsi, le labbra, vedo immediatamente il sorriso, no? È una percezione gestaltica e lo vedo perché sono stato iniziato a una forma di vita nella quale il sorriso ha un certo ruolo. Quando ero piccolo a scuola si faceva una cosa noiosissima, si chiamava educazione all'immagine, che è un nome molto burocratico, che significa che tu devi imparare a riconoscere in questa mela un saison. E come bambini non la vedi. Allora, grazie al paradigma che acquisisco nel campo della storia dell'arte, vedo in quella mela un saison. Vedo in saison il precursore del cubismo. Vedo un Caravaggio in Caravaggio. Un bambino non lo vede, vede delle navi, vede la scena di una città. Allora, questo è un aspetto fondamentale. Noi acquisiamo tacitamente il paradigma che ci permette di notare alcune cose piuttosto che altre. Proprio perché il paradigma è acquisito tacitamente, noi non ci rendiamo conto che le costellazioni sono un prodotto, il risultato di una costruzione percettiva. Lo vediamo immediatamente come una cosa che fa parte dell'arredo del mondo. Ma attenzione, è un risultato acquisito. Solo che siccome il paradigma è diventato un paio di occhiali che portiamo sempre fin da piccoli, vediamo direttamente le stelle e non vediamo più gli occhiali. Kuhn è stato importante perché ci obbliga a tornare indietro e a riflettere su questa, sul ruolo del paradigma. Quindi sta decostruendo quello che potremmo chiamare il mito dell'occhio vergine. L'occhio vergine che vede le cose direttamente come sono, in modo immacolato. No, ogni osservazione, dice Kuhn, è carica di teoria, theory laden. È pregna di una teoria che abbiamo acquisito. E ogni osservazione è il risultato selettivo delle operazioni messe in atto da un osservatore alla luce di un paradigma. Il risultato selettivo di alcune operazioni che mettiamo in atto in virtù di un paradigma condiviso. Se no, saremmo come un videoregistratore. Tutto a pari valore, tutto e niente a pari valore. Non conosceremmo la realtà, saremmo sommersi da dettagli e non potremmo appunto distinguere. Allora, proprio perché il ruolo del paradigma non si vede, Kuhn ha scelto di lavorare storicamente e di concentrarsi su quei momenti di discontinuità in cui il paradigma vecchio viene meno e un altro viene, diciamo così, adottato. Allora, la storia diventa l'espediente per mettere in luce qualcosa che solitamente rimane sullo sfondo. il caso su cui ha lavorato di più Kuhn è quello del passaggio dalla teoria cosmologica di Tolomeo, che è una teoria geocentrica, la Terra è al centro dell'universo, una teoria formulata nel secondo secolo dopo Cristo, che cerca di confermare le ipotesi di Aristotele, cioè di un universo molto grande ma finito, le stelle rappresentano l'ultimo strato, con la Terra al centro appunto dell'universo. Questa teoria viene poi sostituita, e ora dirò qualcosa di più, dalla teoria copernicana nel 1543, quindi 13 secoli dopo, questo è importante, e se prendiamo Aristotele sono molti di più, cioè le rivoluzioni avvengono ogni tanto e non troppo spesso, per cui l'accusa del relativismo non ha senso, perché all'interno di un paradigma non c'è relativismo, comunque ci arriva questo. La teoria di Copernico sostiene che al centro dell'universo c'è il Sole, è una teoria eliocentrica, e l'avvicendamento del giorno e della notte è dovuto al moto di rotazione della Terra intorno al proprio asse, l'avvicendamento delle stagioni è dovuto a un moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole. Quindi c'è un doppio moto, di rotazione intorno al proprio asse e di rivoluzione intorno al Sole. Bene, uno potrebbe pensare, ecco, un perfetto caso di progresso scientifico. Copernico spiega tutto quello che spiegava Tolomeo e in più aggiunge delle cose. Beh, non è così. Intanto, come ho detto prima, un paradigma non è solo una teoria, ma un insieme molto più ampio, un orizzonte culturale. Per esempio, il posto dell'uomo nell'universo, che non è più centrale, ma è periferico. Le immagini, anche in senso estetico, cruciale è il moto rotatorio, cruciale è il ruolo del Sole, e quindi la teoria pare, secondo alcuni, di ispirazione ermetica. Ermete Trismegisto aveva formulato una teoria magica secondo il quale il Sole aveva più importanza della Terra. In ogni caso, non abbiamo a che fare soltanto con una teoria scientifica, ma con un insieme di assunti più ampi. Quella che Kuhn chiama una metafisica influente. La metafisica influisce. La metafisica, cioè le credenze di base sul posto dell'uomo, sulla forma della teoria, sulla forma della Terra, sul ruolo del Sole, non è una cosa extrascientifica, è influente, agisce. E ovviamente la Terra, il Sole, non la Terra, è al centro dell'universo, diremmo noi oggi. Ma c'è voluto qualcuno che ha avvertito il bisogno di domandarsi e se la Terra non fosse al centro? È una domanda per noi ovvia, ma che allora non era. Per secoli e secoli uomini e donne non hanno avvertito la necessità di questa domanda, che è una domanda insensata. Quindi quello che possiamo dire è se si pone quella domanda succedono una serie di cose, ma bisogna che quella domanda venga avvertita come importante, come cruciale. Allora, proprio per questo Kuhn dice che non si parla di cumulatività, ma di discontinuità. Non è solo una teoria, è un quadro complessivo, e quindi non abbiamo un modo per decretare un vero progresso. Ci vorrebbe un terzo linguaggio neutro che possa misurare entrambe i paradigmi, ma non c'è. E quindi Kuhn dice, forse esagerando un po', comunque fra i due paradigmi c'è incommensurabilità. Cioè, fra Tolomeo e Copernico, non possiamo dire che Copernico è superiore in assoluto, perché abbiamo appunto a che fare non solo con delle teorie verificabili, ma con un orizzonte complessivo. La stessa cosa vale anche per il passaggio dal concetto di calore a quello di elettricità, a quello di elettrone, per il passaggio di corpuscolo a onde luminose, a fotoni. Apparentemente si parla sempre della stessa cosa, ma in realtà no, perché lo stesso riferimento, la luce o l'elettricità, è inquadrata all'interno di un paradigma e quindi assume un significato diverso. Ecco perché Kuhn tende a sottolineare la discontinuità fra paradigmi. Ora vi farò vedere una figura un po' da lontano e vorrei che ciascuno di voi in silenzio segnasse la prima cosa che vede percependo questa figura. Non guardate le scritte che sono in danese, ma soltanto la figura. Pronti? Avete? Sentiamo? Canà? Coniglio. Allora, è una figura di Jastrow ed è una figura volutamente ambigua, perché questo può essere sia il becco dell'anatra che l'orecchio del coniglio. Ma è un caso interessante, su cui ha lavorato anche Wittgenstein, che Kuhn ha letto, perché dimostra come una stessa configurazione di stimolo può generare due esperienze visive diverse. Quindi non è che invento la realtà è quella, però appunto la categorizzo in modo diverso. Il passaggio da un paradigma all'altro è un po' come il passaggio dal vedere prima l'anatra a vedere poi il coniglio. Se noi vediamo, come si chiamavano, un Commodore, uno di questi computer degli anni 80, non riusciamo a vederlo come lo vedeva un ragazzo negli anni 80, come un pezzo di tecnologia strepitoso. Non c'è niente da fare. Il nostro presente è cambiato ed è, in qualche modo, condizionato da un nuovo paradigma. E così anche in storia della scienza si può tornare indietro, ma fino a un certo punto, no? Ora, c'è un passaggio importante e difficile nel libro di Kuhn, quello relativo alle anomalie o alle discrepanze. No, lui sembra dire questo. Questa è la lettura facile ma sbagliata. C'è un paradigma, quello che so io, di Lamarck, però ci sono una serie di anomalie, di cose che non funzionano, di discrepanze, e quindi si impone un nuovo paradigma. Il paradigma di Darwin. Non è così. Se leggete attentamente, Kuhn dice che noi chiamiamo anomalie, diciamo, usiamo la parola anomalia per esprimere il disagio nei confronti del potere esplicativo del paradigma. Quando il nostro paradigma non collettivamente non ci soddisfa, allora iniziamo a riscontrare anomalie e discrepanze. L'ordine è sempre questo, non dai fatti al paradigma, ma dal paradigma ai fatti. È la relazione paradigma-realtà che a un certo punto non è più soddisfacente e può provocare poi il mutamento di paradigma. Non sono mai i fatti di per sé che hanno la nettezza e la forza per autoimporsi e rovesciare un paradigma. È sempre la relazione. Diciamo, la soddisfazione degli scienziati nei confronti della relazione paradigma-realtà. E questo è il criterio fondamentale, non i fatti di per sé. Io mi sto dilungando troppo perché sto parlando un po' lento, quindi vediamo di sintetizzare e lasciare fuori alcune cose. Allora, concluderò dicendo che, andando un po' oltre Kuhn, quindi è giusto finire, possiamo distinguere due forme di costruzionismo o costruttivismo, si dice in tutti e due modi, ci sono delle piccole differenze che sono irrilevanti. Il primo è quello che possiamo ricondurre all'esempio delle costellazioni. Costruzionismo significa che noi mettiamo in forma la realtà. Mettiamo insieme cose che altri potrebbero separare, separiamo cose che altri potrebbero aggregare fra di loro, no? Quindi la nostra conoscenza della realtà è sempre una messa in forma della realtà. Il paradigma questo fa. Però poi c'è un'altra forma di costruzionismo che riguarda il mondo storico-sociale ed è proprio la creazione di una realtà culturale. Allora, mentre le costellazioni le configuriamo noi, ma le stelle, diciamo così, ci sono, se prendiamo un matrimonio, una partita di tennis, o il sabato e il venerdì, queste sono costruzioni culturali, cioè che esistono soltanto all'interno di certe società. Quindi è un costruttivismo, diciamo così, di secondo livello. Mi riferisco non all'aggregazione, alla messa in forma di fatti, ma proprio alla creazione di qualcosa di ex novo. È vero che il tempo, il flusso del tempo c'è, e quindi in qualche modo il venerdì e il sabato è solo un modo convenzionale di segmentarlo, però insomma potremmo dire così. Allora, per noi scienziati sociali c'è un passaggio ulteriore, che non è solo quello di scoprire come le comunità scientifiche, in virtù dei paradigmi, mettono in forma la realtà, ma quello di capire anche come le comunità sociali, interagendo fra di loro, creino delle realtà culturali. Se io non faccio parte di quella realtà, non accedo a queste creazioni. E questo è un po', se vogliamo, il campo più dell'antropologia, insomma, quello di girare di comunità in comunità per cercare di capire questo gesto, non so, questo gesto qui che da noi significa un saluto, per cosa sta in quella comunità. No? Qui ci allunghiamo troppo, mi fermo così per ora, poi nella discussione si può riprendere.